Signore e signori, come avete già potuto capire dalla sigla un po' così, un po' deviata, un po' diversa, queste saranno le nostre puntate balneari, come il governo balneare di settantina memoria, se vogliamo. Da quell'altra parte noi parleremo di università oggi, poi ci saranno altre due puntate balneari in cui approfondiremo... Altre puntate, vi voglio lasciare con la suspense. Noi oggi sicuramente parleremo di università, perché non possiamo fare altro che parlarne noi, perché siamo i tipi da spiaggia. Quindi durante le puntate balneari, noi tipi da spiaggia parleremo di questo. L'università, volevo dire, Gustavo, università. Università oggi, e poi chi vivrà vedrà. Dall'altra parte cosa abbiamo dall'altra parte, Miss? Abbiamo dall'altra parte, discutiamo di tutti questi... di quello che è accaduto soprattutto quest'anno di Fuori Onda Radio, mi sbaglio? Quello è Fuori Onda Radio, è la nostra gloriosa radio headmaster, diciamo così, l'holding sotto la cui ala si sviluppano tutte le gloriose sue trasmissioni, tra cui la nostra cara Banda Armata. Il lavoro che vorremmo presentarvi ve lo introduciamo con un piccolo RVM. Un piccolo RVM. RVM, così si dice. Ecco qui. Bravo Romincio. C'è qualcuno che dice che bisognerebbe portare l'efficienza del privato all'interno del pubblico e la moralità del pubblico e l'etica del pubblico all'interno del privato. Allora, parliamoci chiaro, noi crediamo fortemente in un'università pubblica. E pensiamo che quindi le università, benvengano gli apporti del privato, benvengano anche delle sinergie con il mondo del privato, ma debba rimanere prevalentemente un'università pubblica. Ma si dovrebbe appunto utilizzare questi giovani, perché non è una riforma. Che cosa riforma? Io la vedo come una controriforma. Si taglia nella pubblica amministrazione, si taglia nella cultura, si taglia nella scuola, Montecitorio meno, taglia meno. Non sai com'è alla fine? È lì il divieto di potatura. Non è un'idea diversa di scuola, è semplicemente meno scuola. Ti ricordi le tre I? Inglese, sì. Internet e impresa. Ah, vedi, la terza non la so guai, come i settenani, mi metto. E adesso c'è la quarta però, in culo. No, Luciana! Genitori, dite ai vostri figli di stare a casa. Quelle manifestazioni sono frequentate da potenziali assassini, vanno evitate. Questo sarebbe il giusto equilibrio. Ed era quello che volevamo dire anche noi, era quello il giusto equilibrio, no? Questa è un po' la sintesi. Appunto, guarda, questa è stato veramente un passaggio fazioso che avete voluto fare voi per introdurre un argomento serio di cui noi comunque stiamo intendendo a parlare, discutere e fare qualcosa per migliorare quella che è l'università. Non si può continuare a fare questo tipo di ragionamenti a prescindere a priori da quelle che sono le contingenze materiali. Ma non è finito l'RVM. Ma comunque la cosa che volevo far notare subito è quello di cui volevamo parlare in questo primo stacco, è appunto il passaggio piacevole che c'è stato, come faceva notare anche il glorioso professor Paolo dell'Università di Torino, la prima voce che avete ascoltato. A cui mandiamo una sincera e accorata stima. Certo, lei? No, ma in realtà l'università deve essere prevalentemente pubblica. Cioè. Sì, la cosa curiosa è stata proprio questa. Il passaggio da... la prima frase era noi siamo per l'università pubblica, poi invece è diventato per l'università prevalentemente pubblica, che insomma è una cosa interessante. E questo processo è nato molto tempo fa, ne abbiamo parlato praticamente in maniera continuata. È nato nel 2008, prima è stata tagliata da lontano, poi si potrebbe andare anche più indietro, però ci fermiamo qua, giusto per non essere... Anche per notare uno dei motivi fondamentali per i quali siamo qui ancora oggi, insomma, la nostra ferma opposizione alla Eifugino 33, insomma. Noi infatti non vogliamo assolutamente essere tacciati di vecchismo, se ci dicono sempre che siamo vecchi. Immagino, questo è nuovo, 2008, voglio dire, è nuovissimo. E praticamente sono stati prima tagliati i fondi all'università e poi con l'ultima legge, che era quella proprio di cui si parlava sopra, patam pim patam, diciamo così, è stata riorganizzata la struttura amministrativa dell'università, arrivando alla gloriosa commissione statuto degli ultimi tempi, diciamo così. Sì, ma qual è lo spirito che ci sta sotto questo genere di riforme? Questa che è la nostra amatissima signora Hack ci ha chiamato come dire controriforma. Amatissima era per dire, chiaramente, non vi ci affissate. Il punto è che... cioè, comunque io vorrei chiedere alla signora Hack. Signora Hack, ma secondo lei dove dobbiamo andare, qual è la soluzione? Indagini europee, va bene, l'importante è che sono le cose europee, non ti preoccupare, tu... sull'Europa ci siamo sempre, figurati, ha voglia l'Europa, soprattutto con i monti eccetera eccetera, vuol dire l'Europa è il nostro cavallo di battaglia. E sì, che lo spirito che ci sono, qual è lo spirito? A parte l'alcol, e lo spirito è quello che di far sì che lo Stato spenda meno in servizi sociali, quindi anche in istruzione, in diritti. Succedono queste due cose: il primo è che questi diritti vengono a mancare, il secondo è che questi diritti costano molto di più a chi, come dire, ne fruisce, così come gli studenti dovranno pagare di più i tasse, dovranno pagare di più i servizi. Il che mi viene sempre alla mente quella bella battuta, dice, che se lo paghi che diritto è? Ma infatti quello che volevo dire io anche è che finalmente possiamo sottolineare la grande minchiata che è la frase con cui si sono fatti grandi i cavalieri, i capi di Stato e non capi di impresa degli anni 80, ovvero sia che meno Stato è bene. Meno Stato, lo sappiamo, validifica proprio quello che stiamo guardando oggi, ovvero sia che se c'è meno Stato il figlio di operaio non potrà diventare dottore, o no? Ma è giusto così, il figlio di dottore deve diventare dottore, il figlio di ingegnere deve diventare ingegnere, cioè... E io ti dico la verità, me ne fotto che sarò tacciato di populismo. Voi siete sempre i soliti, ha ragione Gaspare, siete proprio degli assassini, siete. Allora, per sottolineare questa cosa io metterei un pezzetto. No, io prima del pezzetto volevo dire una cosa, che volevo ammettere che sono un assassino. Sono un assassino perché, voglio dire... Diciamoci le cose, io sono un assassino. Io no. Come è possibile? Scusa, tu non vai a manifestare? No, io no. Ah, ok, allora chiediamo. Vediamo. Tu? Non è vero, ti ho visto alle manifestazioni, lascia stare. Io ero con la Digos, la questura. Tu no. Io ero con loro. Quindi, allora fatemi capire, se quindi anche i poliziotti erano in piazza, vuol dire che manifestavano, e se manifestavano vuol dire che sono assassini anche loro. Esatto. Che già mi pare più probabile, insomma. Sì. Ecco, quindi diciamo tutti quanti insieme in una strage di massa. Siamo tutti assassini. Allora. Fateci sognare, grandi. Contro di me, e adesso che tutto è sommerso, che cosa resta e perché? Perfetta per infrangerti contro di me, e adesso che tutto è sommerso, che cosa resta e perché? Sei stata un'ondata violenta per aprirti qui dentro di me, e adesso che tutto è diverso, questo silenzio cos'è? Stava la mia testa mentre lei rotolava nella cesta. perfetta per infrangerti contro di me. E adesso che tutto è sommerso, che cosa resta e perché? Sei stata un'ondata violenta per aprirti qui dentro di me. E adesso che tutto è diverso, questo silenzio cos'è? Stiamo tutti quanti seccando, diciamo così, siamo più o meno in una sedia elettrica e non si sa come andrà a finire questa puntata perché siamo tutti quanti in tensione. Il caldo di Cosenza fa un effetto, come dire, a livello di K, un effetto a livello J. Esatto, sto per la stessa battuta, mi fa piacere. Tornando al discorso, la questione della legge Gelmini non l'abbiamo concluso nel discorso che abbiamo aperto, e quindi dire, ci sono tante cose da dire sotto nella sostanza. La prima di quelle tutte è che viene dopo la legge 180, quella che tagliava un sacco di soldi all'università, prima 1,5 miliardi, poi 800 milioni, e poi bloccava e complicava il percorso delle assunzioni. Detto questo, arriva la legge, questo decreto di legge, oh, che era un disegno, sì, 1905, il disegno del 1905, diciamo così, uno schizzetto, diciamo la prima rivoluzione menscevica più o meno. Detto questo, no? Ma che cosa dice questa legge? Sicuramente è una legge che mette le mani all'interno dell'organizzazione dell'universitaria per, come dire, cambiarne, stravolgerne l'assetto, sicuramente. Assetto? Quindi qua gli manca qualche setto. Eppure, ogni tanto. Se lo vuoi fare tu, Gustavo, fammi capire questo setto, eh? No, vai, facci sognare. Io? No, scusami, tu stavi dicendo il setto. Ah, il setto, no, nel senso che se è assetto è buono, se è all'impiede è per un problema. Giustamente, hai ragione. Attenzione però, perché mentre parliamo di assetto e all'impiede, ci sono tante persone che rimarranno all'impiede, e prima di tutto rimarranno all'impiede quelli del consiglio di facoltà, perché le facoltà spariscono insieme ad uno stravolgimento degli organi di gestione dell'università. Basti pensare all'accentramento di potere, quell'oscuro potere che si concentrerà nel consiglio di amministrazione, no? Che non sarà più eletto ma sarà nominato. Certo, noi adesso stiamo parlando al futuro, però di fatto ormai è passato l'annetto, diciamo, di transustanziazione di questa cosa, e vi faremo vedere gli aggiornamenti proprio reali nel prossimo stacco, che insomma è arrivato questo momento, insomma è arrivato il momento in cui i dipartimenti la fanno da padrone. Dopo la fine delle facoltà adesso è l'epoca dei grandi dipartimenti. con questa capacità molto, come dire, molto interessante di assorbire quelle che sono le energie del territorio e le cose. Insomma, loro per fare questo hanno trovato il modo interessante di coinvolgere tutta la cittadinanza nell'università, cioè far entrare i privati all'università. Questa cosa del, perché come si sentiva anche prima dal professore Paolo, questa cosa che il pubblico è blindato, è pieno di, come dire, cancri e malaffare, no? E quindi lo apriamo a come dire, quei facoltosi e interessanti signori che governano, che hanno aziende, imprese, qualcos'altro, insomma. E che dovranno essere al 30% minimo nel consiglio di amministrazione futuro, no? Come è fatto questo consiglio? È fatto da 11 membri, perché giustamente prima erano troppe persone e non va bene. Quindi sono. Ma membri in che accezione del termine? Ciolle. Ok, va bene, no, in realtà va detto pure che hanno diminuito il numero, perché prima erano troppi membri, su una discussione ci voleva troppo tempo per andare avanti, e quindi da 11 siamo di meno, è meglio. Soprattutto se di questi 11 la maggioranza è già claccata, diciamo così, nel senso che come modalità di elezione anche lo statuto dell'Università della Calabria, il nuovissimo statuto fatto dalla nuovissima commissione dell'Università della Calabria, che io vorrei citare, perché secondo me i nomi di questi uomini gloriosi che hanno deciso come la nuova università deve essere, secondo me devono restare scolpiti nel marmo, così, perché quando li vedremo in giro o sentiremo i loro nomi, secondo me è di girare una pochi palli così ha senso. No, in realtà non so se sapete, un'ultima notizia, stanno già preparando il marmo che dici tu al centro residenziale, con scolpiti tutti i vari nomi con le facce pure, cioè una cosa seria. Questi prodi 11 che hanno in mano 12, perdonatemi, no, che si succede i 12, compa? Sono proprio una brancata, compa. L'11 hanno loro 14. 12, 3, 15, i prodi 15. Allora abbiamo il io i primi voglio dire a Riddi, signor Domenico Cambrea e signor Emilio Dacri. Olle, rappresentanti degli studenti. In generale non sappiamo quali studenti, però rappresentanti degli studenti, detti anche diciamo rettori ombra, ecco. Sì, appunto, perché hanno questa capacità di essere, come dire, lo strumento per tradurre in realtà i sogni del rettore. È una questione psicologica. Sì, esattamente. Poi abbiamo componente designato dal senato accademico Alfio Carriola. Altri componenti designati dal senato accademico ai seguenti: Giovanna De Sensi, professoressa, professor Silvio Gambino, professore Cesare Indiveri, professoressa Maria Laura Lucchi. Che era il nostro ex preside, tenerissimo. Che pezzo di femmina, che... Madonna mia. Poi abbiamo il signor, sempre designato dal senato accademico, Vincenzo Pezzi. Invece abbiamo quelli designati dal consiglio di amministrazione, che sono il dottore ricercatorino Gianluca Loi, Riccardo Barbieri, dottor Gianluigi Greco, dottoressa Rossana Loizzo, professoressa Claudia Stancati e professor Raffaele Zinno. Questi sono i magnifici 15 che hanno distrutto l'Università della Calabria. Segnatevelli. Da qui a per andare oltre, cosa è successo? È successo che appunto il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria sarà composto anch'esso da 11 persone, e dico, non solo sono di meno, però avranno anche, diciamo, la maggioranza già blindata, perché per statuto l'Università della Calabria e molte altre, perché giustamente quando qualcosa la puoi fare peggio, perché non farla, hanno scelto la via della nomina. Quindi ci sarà assieme al rettore, ci porteremo nel consiglio di amministrazione la sua maggioranza. Quindi abbiamo il rettore e i cani al seguito, che voteranno in blocco naturalmente tutte le volontà del rettore. Forse non avrà nemmeno più bisogno di ammaliare con lo sguardo i sedicenti rappresentanti. Adesso si traduce, questo qui è una perdita di poeticità in fondo, perché mentre il rettore prima andavi da lui a rompergli le scatole, come giusto che sia, e lui ti diceva guarda, non ci sono soldi, alzava le braccia come il Gesù Redentore e faceva il suo monologo, e poi diceva questo paese è diverso dall'Iran. cioè, di cui avremmo voluto porvi l'RVM anche di questa bellissima situazione. Adesso invece questa cosa del 5+1, questa è un po', non so se Luca poi me l'appoggia questa cosa, non so se Luca me l'appoggi. Vabbè, se la vuoi appoggiare. Aspetta, prima devo finirla, vita. Allora, è un po' il passaggio dal marcamento a uomo a marcamento a zona. O no? Quindi adesso c'è il 5+1 che è un sistema bloccato, no? Che tu hai già la maggioranza, sai già dove devi andare, insomma, o no? Questo qua, diciamo, ha fatto la classica formazione stile Barcellona il gioco, no? Quindi non c'è neanche. Comunque in realtà non è 5+1, 5 più il rettore 1 sarebbe, giusto? 5+2 devi mettere. Con il rettore c'è pure il rappresentante degli studenti, quindi che... No, però quello che volevamo dire è appunto che il rettore, non avendo più bisogno del rappresentante degli studenti, i rappresentanti degli studenti a cosa serviranno? Ah beh, è sempre buono a fare ombre comunque. Mettiamo un pezzo che abbiamo fatto 8 minuti e mezzo, scusateci, perdonateci ascoltatori che ci state ascoltando su tutte le radio del mondo, tra Transizione di Fase, Radio C Roma e Fuori Onda Radio, RTL. Sul web RTL 102 minchia, ciao, sono un po' scutito. Quindi noi questa cosa della commissione come l'abbiamo presa? Secondo me abbiamo mantenuto quella che non poteva essere altro di una linea sincera e decisa, nel senso che siamo stati tra quelli i promotori delle rivolte degli studenti, siamo stati gli studenti che si sono incavolati nel 2008, siamo stati gli studenti che sono arrivati nel 2010 due volte sull'autostrada qua a Rende, appunto per la questione della commissione statuto e della riscrittura del nuovo statuto, in sostanza della seconda legge Gelmini, disegno di legge come dicevamo 1905, che poi proprio quel 23 dicembre maledetto il Senato diciamo ratificò e fece diventare legge dello Stato italiano. Però non eravamo tutti quanti a pensarla così, c'era chi anche diceva, se tu ti ricordi, che quella fase di riscrittura dello statuto era una fase quasi costituente dell'università, quindi paradossalmente era una fase che ampliava, creava dei diritti di formazione della nuova università. È ancora scritto nero su bianco da qualche parte questo passaggio, eh? È una fase di ampliamento dei diritti. Eh sì, il che ci fa ridere se pensiamo al fatto che questa fase si apriva in applicazione di una delle peggiori norme state fatte dall'università negli ultimi 3 anni, e il fatto che, come dire, tu prima combatti una norma, prima ti opponi a queste misure governative che sbudellano l'università e poi festeggi come ampliamento dei diritti la sua applicazione, è una condizione che non siamo potuti riuscire a reggere. Per questo la nostra posizione era quella chiaramente che la Commissione se ne andasse a quel paese, e se ne andassero a quel paese anche coloro che avevano fatto dell'università, come dire, il balocco dei privati. E appunto che venissero i commissari, che venissero appunto a prendere in mano la situazione coloro che comunque segnalassero questa emergenza, che mettessero la dinamica su questo piano. Ed era proprio questa la posizione del nostro collettivo, che venga il commissario ministeriale e poi ce la vediamo con lui. E infatti gli studentelli politicizzati questa cosa qui non ce l'hanno mai permessa, nel senso non ci hanno aiutato nel far fronte a questo tipo di iniziativa, e purtroppo ci troviamo ora nelle mani di quei 15, dei famosi 15, e purtroppo ognuno voleva il suo potere, voleva la sua nicchia, e purtroppo gli studentelli sono questi. Diciamo che tira di più una cosa del tipo: dai, c'è il rettore che ci ha chiesto, facciamo la nuova università, parliamone insieme, e non una cosa del tipo: l'università sta andando a puttane, mandiamo tutto quanto a puttane, facciamo arrivare lo Stato, il Ministero, il Commissario Ministeriale, e giochiamocela all'ultima carta che abbiamo, perché era davvero l'ultima carta. Eh sì, che poi la differenza non è sostanziale, nel senso che la fase di riscrittura dell'università, dato che non aveva nessun tipo di coinvolgimento del potere studentesco, a parte i due rettori ombra che abbiamo definito prima, i due rappresentanti degli studenti, che sono dei burattini, dei fantocci, a volte anche si dovrebbero usare il linguaggio molto più basso per definirli. Comunque, questo, non c'era nessun potere studentesco all'interno di quella commissione, quindi di fatto noi eravamo già commissariati. Il punto è non riconoscerlo nella forma, il punto è che il commissariamento venga davvero, sarebbe stato un momento in cui si sarebbero mosse le acque, si sarebbero cambiati i rapporti di forza, era una cosa potenzialmente esplosiva, insomma. Quindi, da come si può capire, nessuno faceva le feci degli studenti, o mi sbaglio? E ora mandiamo un bel pezzaccio di... Qual è? Billy, cazzo. Vabbè, comunque, prossimo pezzo, Giovanotti, dai. Il famoso Asdrubale di Billy Stone and the Nightingale, vai. Piazza di Spagna, splendida giornata, traffico fermo, la città ingorgata, e quanta gente, quanta che ce n'era, cartelli in alto, tutti si gridava, e no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni. Guardavi tu con occhi stanchi, mentre eravamo ancora lì davanti, ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, c'erano cose certo più importanti, e no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni. 11:15 avanti architettura, non c'era ancora ragione di aver paura, ed eravamo veramente in tanti, e i poliziotti in faccia agli studenti, e no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni. Hanno impugnato i manganelli ed han picchiato come fanno sempre loro, e all'improvviso è poi successo un fatto nuovo, un fatto nuovo, un fatto nuovo. Non siamo scappati più, non siamo scappati più. Il primo marzo sì, me lo rammento, saremmo stati 1500, e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via, e no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, ma c'erano cose certo più importanti, ma qui che fai, ma vattene un po' via, non vedi arriva giù la polizia, e no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni. Le camionette, i celerini, ci hanno dispersi, presi molti e poi picchiati, ma sia ben chiaro, e si sapeva, che non è vero che non è finita, non siamo scappati più, non siamo scappati più. Il primo marzo sì me lo rammento, saremmo stati 1500 e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via. E no alla scuola dei padroni, e via il governo di missioni. E no alla classe dei padroni, e non mettiamo condizioni, no! Yeah, i Catarral Noise, i Catarral Noise, un grande pezzo che ci dava proprio una grinta. Te spuo su una reccia, il grande album. Il grande album dei Catarral Noise, questo gruppo veneto di chiara fama e indiscusso talento. Tornando al punto che ci premeva, come dire, portare fuori in questo sviscerare in questa cosa, in questa trasmissione, l'università, c'è un'altra cosa che nella fine delle facoltà, cosa succede? Succede anche che c'è la palla passa ai dipartimenti, che hanno il compito di gestire e indirizzare lì l'offerta didattica e la ricerca, e anche hanno una certa come dire, autonomia di bilancio all'interno degli investimenti per il materiale. E i poveri presidi di facoltà hanno perso tutti il loro potere. Esatto. Il che, come ci diceva, si elimina un passaggio, come dire, un passaggio democratico, collegiale, mettiamolo qui, non democratico, perché non si sa mai bene come funziona, però si diminuisce la collegialità all'interno dell'Ateneo. Il punto è proprio questo. Adesso, all'interno dei consigli delle giunte di dipartimento, ci potranno sedere anche i professori che fanno anche consulenze, quindi direttamente gli esterni, direttamente coloro che dell'università non fanno parte, sempre nella logica di operatizzazione del sapere pubblico, di aziendalizzazione delle strutture universitarie di cui dicevamo prima. Naturalmente questo qua sarà proprio l'assetto, quello che il nostro Di Leone glorioso vi illustrerà, sarà l'assetto che troveremo ad inizio corsi, diciamo dal novembre 2012, ottobre-novembre 2012. Infatti abbiamo anche dei passaggi organizzativi non da poco, e quindi da sei facoltà che prima gestivano la situazione, adesso si passa ad avere, sei facoltà di 5 dipartimenti, si arriva ad avere 14 maxi dipartimenti, e in cui ci sono stati associazioni di più o meno a delinquere di professori, e con un minimo, che dovevano avere questi dipartimenti un numero minimo di 50 professori. E quindi dopo questa spartitocrazia, adesso andiamo ad elencare quali sono i grandi nuclei dei dipartimenti. Il dipartimento di chimica e tecnologia chimiche, con eletto professore il Giovanni Sindona al secondo turno, con due corsi di laurea e 50 docenti. Il dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra, il DBEST, che è andato direttamente in mano al professore, una nostra vecchia conoscenza, il Gino Crisci, che è famoso per quella volta in cui in rettorato un nostro amico andò dietro a Gino Crisci saltellando dicendo mangia ca Crisci. questo ricordo, giusto come nota di colore a margine. Andando avanti, proseguendo, il dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione in mano a Sebastiano andò. Dico in mano perché le elezioni, tranne in due casi, sono state vinte tra virgolette, appunto perché molto spesso erano o candidati unici oppure vinte con scarti di voti che davano delle cose bielorusse, insomma cose turche, bielorusse, quella roba là. Bulgare, sì, bunga bunga. E ecco, proseguendo andiamo al dipartimento di fisica, che è stato tenuto in mano da uno dei deus ex machina della commissione statuto, che è il professor Riccardo Barberi, nonché legato e intorcigliato anche con la Tecnest, insomma un simpaticone. Il dipartimento di informatica, modellistica e sistemistica per l'ingegneria, il dipartimento dei DIMSI, è stato, è capitanato dal professor Sergio Greco. mentre quello di ingegneria civile, che corpa anche il, come dire, ingegneria di architettura, una meravigliosa corso di laurea, quindi vi invitiamo a non iscrivervi, è stato, attenzione, cioè un corso di laurea di artisti, se posso dirlo comunque. Si sa come sono gli artisti, vero? No, abbiamo già avuto un RVM su questo recentemente fa, diciamo, non eravamo proprio in diretta, però non vorrei sussumere, non sussumiamo, anche perché è l'ora, è questa è l'ora che volge al disio. Questo dipartimento di ingegneria civile è stato, come dire, impersonificato dal professor Paolo Veltri, nonché ex presidente di facoltà, che come dire, ha lavorato per questa spartizione della facoltà di ingegneria in tante piccole facoltà di cui poi diremo dopo, in tanti piccoli dipartimenti di cui poi diremo dopo. Proseguendo, c'è il dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale, che al secondo turno ha visto trionfare, indubbiamente per chi era dietro, il titanico Sergio Bova, di cui abbiamo anche una diapositiva. No, diciamo che Sergio Bova comunque, cioè, questo cazzo è? Questo dipartimento di che? Fammi leggere. L'ingegneria meccanica, energetica e gestionale, ancora un'altra cosa? No, vabbè, comunque, capitanata da Bova comunque. Io direi. Ah, voglio, questa è la chiarezza degli elementi, della chiarezza dei contenuti politici. Per andare all'imperito ingegneria per l'ambiente, il territorio e ingegneria chimica, questo è uno dei simpatici mostri che sono venuti fuori da questa spartizione di dipartimenti, che accorpa lo storico dipartimento capitanato da Pasquale Versace, nonché un nostro simpatico amico e anche, come dire, responsabile di protezione civile, che ha creato attorno a sé questo, ha avuto la possibilità di promuovere questo, come dire, questo dipartimento di pianificazione territoriale, che è stato accorpato a ingegneria chimica e ha subito la, come dire, la preponderanza numerica degli ingegneri chimici, arrivando quindi a soccombere. Perciò il professore Pasquale Versace, appunto, in una lettera annunciava che non si sarebbe più occupato di queste cose, anzi avrebbe chiesto di essere spostato di dipartimento. Un pensiero caloroso a questo nostro... Yeah! Il dipartimento di lingue e scienze dell'educazione è in mano al professor Franco Altimari, nonché ex prorettore, che ha usufruito della scissione di questo piccolo dipartimento dal grande dipartimento che voleva creare il caro Perrelli, un dipartimento unico di studi umanistici con ben 151 professori. Invece lui ha esercitato una forza centripeta, di cui abbiamo anche una diapositiva. Viva l'acqua pubblica! Ecco, e dopo questa forza centripeta ha avuto la possibilità di comunque rendersi indipendente. Proseguendo, c'è anche il dipartimento di matematica e informatica, che è stato diventato, come dire, proprietà di professor Nicola Leone. Allora, innanzitutto, o è capitanato o è stata diventata, cioè deciditi un po' quello che devi. Ma la scissione che c'è stata a lettere tra Perrelli e Altimari è tipo la scissione del Grande Casalesi, fammi capire come... Di questo solamente diamo i posti di ritardo sentenza, vorrei porlo così. Per arrivare, arriviamo finalmente al Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, che è il DISCAG, che ha visto ritrovare un posto di comando al professor Franco Rubino. Arriviamo agli ultimi tre dipartimenti: il Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Finanziarie, che vede il professor Ivan Massabò essere eletto al terzo turno. Il Dipartimento poi di Scienze Politiche e Sociali ha visto comunque una nostra vecchia conoscente, il professor Fantozzi, diventare dell'area sociologica, diventare il presidente di dipartimento di questo dipartimento di scienze politiche e sociali. Poi c'è il dipartimento, il grande dipartimento, il maxi dipartimento di studi umanistici, che è stata la prova un po' controversa da tutti i punti di vista di Raffaele Perrelli, insomma, che di cose controverse ne ha fatte, insomma, e continua a farne. Diciamo che dopo questa ampia panoramica su tutto quello che sarà precisissima panoramica, io non lo so, vai Luca. Io ora sfido tutti prima della pausa dello stacco musicale. a ricordarvi tutte le sigle. Cioè, sfido chiunque a ricordarle tutte. Pure il rettore, sfido che manco se la ricorda, secondo me. Secondo me, perché poi hanno delle cose, scene di Mac, di Brad, di Struz, c'è Tafuki, si vedrebbe bene. Comunque, è un ennesimo stacco di quasi 10 minuti per la gloria dei nostri ascoltatori estivi. Un bacio a Perrelli. Un bacio a Perrelli. Ciao, bello. Facci sognare, vediamo se, caro signor Bello, Perrelli. Usa il culo. Non me la menare, che io secondo me dovrebbe essere un glorioso e raccomandabile e interessante ammonimento che dovremmo avere, diciamo, tutti un po' noi, quei movimentisti, insomma, che quando sono in assemblea, tradotto, diciamo, in calabrese, mo che cazzo vuoi? Ah! In realtà è stato già proposto come inno nazionale al posto di quello di Mameli, comunque. Infatti, inno della menata. Dopodiché noi adesso dobbiamo fare qualche considerazione politica su questo grandissimo spostamento di poteri che c'è stato all'interno dell'università con lo smembramento dei vecchi centri di potere, che un po' si sono dissestati, insomma, le vecchie facoltà che decidevano corsi di laurea, eccetera, oggi sono diventate, diventeranno da qui a breve, dei dipartimenti, quindi che avranno direttamente un collegamento con finanziamenti, fondi, e quindi dovranno gestire direttamente con i propri soldi anche la didattica, oltre che, come hanno fatto fino ad oggi, la ricerca. Noi abbiamo un presentimento. Abbiamo un presentimento che è gli studenti domani, appena arriveranno, si troveranno, diciamo, dei corsi di laurea un po' così, changed. Perché non sarebbe cosa nuova. Non è stata cosa nuova quando gli studenti dell'allora facoltà di scienze politiche, per un cambio di identità del rettore in pectore, diciamo così, si sono visti, per esempio, il corso di specialistica in diritto internazionale mantenuto nel nome, però cambiato nella sostanza, semplicemente per il fatto che quel preside che era arrivato aveva un'area di influenza diversa, di conseguenza ci ha tenuto affinché i suoi lavorassero. Un'area di provenienza diretta, insomma, diversa. Come si vuol dire, moglie e boi, ricercatori e ordinamenti didattici dei paesi tuoi. Esattamente. E così succede che lo studente che si è iscritto ad un corso che dava una certa formazione, si è iscritto per quel motivo, certo non perché gli piaceva il titolo del corso di studi, si trova con un percorso completamente diverso. Questa storiella è a monito. Questo stacco mi sembra che deve essere coinciso, è a monito per quanto potrà accadere da qui a un paio di mesetti. Eh sì, e con il frazionamento dei, come dire, presidenti allora facoltà, adesso diventano dipartimenti, cambiano un po' le famiglie di appartenenza, cambiano un po' i riferimenti di appartenenza, quindi cambia sicuramente l'indirizzo dell'offerta formativa e anche l'indirizzo della didattica, che si traduce, visto che i dipartimenti hanno autonomia di bilancio, nel fatto che ci sono corsi che verranno finanziati in un modo, corsi che verranno finanziati in un altro, in base alle amicizie e alle inimicizie soprattutto del professore. Insomma, si sta ricostruendo l'università su base, visto che c'erano anche gli esterni, su una base prettamente lontana, lontanissima, con i bisogni reali del territorio e degli studenti in primis. Ecco, e noi vogliamo dirlo chiaro questo, vogliamo dire che ci batteremo affinché gli studenti abbiano i corsi che hanno scelto. Questa qua sarà una battaglia che dovremo cercare di fare, se ci sarà l'evenienza, molto probabile, unendo tutte le vertenze dell'università e cercando di trovare la sintesi comune e dire che fondamentalmente il problema è che tutto quanto quello che ruota attorno al mondo della formazione, lo studente, diciamo che è solo una cosa, nel senso, non è visto come un fine quello di formare lo studente, ma il vero fine è quello di mettere a posto le proprie clientele, mettere a posto i propri giochi di potere, eccetera. Questo dovrà emergere molto chiaro. Lo studente è un pagatore di tasse, e perciò questo dopo lanciamo... No, in realtà, giusto per chiudere, vorrei sapere da cosa scaturisce questa cosa della nota scienziata Margherita Hack, vorrei sapere. Da cosa scaturisce tutta questa cosa? Secondo me, lo possiamo chiedere, signora Hack, c'è? Sì. Qual è la soluzione? Indagini europee? Europee. Oh, ho capito. Ma e invece gli studenti, dico, no? Come bisogna usare? Qual è il fine degli studenti? Ma si dovrebbe appunto utilizzare questi giovani. Ah. La sentita, signore. È un artista, d'altronde. Non andiamo alla definizione. Ora un altro stacco musicale con. Con vedremo. Gibil. Chica, ma. Abbasciullusa lento, denimo sulle mare. E quello d'amburrietto, la gente balla e suona. Ma sta musica etnica ed è una cartolina. E allora dico yeah, mazzate pesanti, culligioni e culliganti, mazzate pesanti, mazzate per tutti senza tanti, su estri concassato una cosa la giù dire, se non parlamo moi dimmi quando i mo parla, su estri concassato una cosa la giù dire, se non parlamo moi dimmi quando i mo parla. Le scorie nucleari alla Basilicata, susciuti con le razzano a toccato se ne tornano, ma brindisi c'erano denimulo carbone, cuffanno la corrente e danno velenati a noi, cuffanno la corrente e danno velenati a noi. La mafia alla camorra, camitte nulle bombe, la gente mazzate pesanti, culligioni e culliganti, mazzate pesanti, mazzate per tutti senza tanti, su estri concassato una cosa raggiù dire, se non parlamo moi dimmi quando i mu parla, su estri concassato una cosa raggiù dire, se non parlamo moi dimmi quando i mu parla. Mazzate pesanti, culligioni e culliganti, mazzate pesanti, mazzate per tutti senza tanti, su estri concassato una cosa laggiù dire, se non parlamo moi dimmi quando i mu parla, su estri concassato una cosa laggiù dire, se non parlamo moi dopo Unica Love, la vostra narrazione quotidiana di gossip dall'Università della Calabria. Addio, tutti stanno con tutti, comba! Voi sapete che Luca non è bravo nelle aperture, quindi diciamo che questa è la motivazione che lui adduce per sostenere la tesi che io o Samuele dovessimo aprire. Ecco, io adesso ho aperto, do la parola a Luca, ciao. Mi avete abituato da fin da sempre a presentarmi, ma che cazzo volete? Non l'ho capito questa cosa. Scusate il cazzo che ho messo tra una battuta e l'altra. Comunque, come detto dalla sigla, inizia il gossip universitario che parte dal lontano novembre, ottobre-novembre 2011 circa, diciamo da fuori onda radio, perché sennò il gossip parte da molto prima, si parla già degli anni 70 comunque, da quando è andato all'università. Ma partiamo subito nel dire quello che è accaduto all'Unica in quei mesi di ottobre-novembre, dove c'era la bufera sugli esami di lettere. Dove c'è stata la DDA di Catanzaro, se non sbaglio, che ha provveduto a raccogliere le prove su tutti i vari indagati, di cui erano arrivati già all'epoca circa 100 indagati, ora sono sorclassati 100 indagati, cioè una cosa mai vista, dove c'entrano comunque tra studenti, segretari e professori. Che cosa accadeva? O che cosa accade tuttora comunque? Ancora non si sa, non è che è stato tutto smascherato. Lo studente andava al segretario, il segretario gli dava lo statino dato al professore, firmava, tutto bene, tutto a posto, complimenti, trend e lode. Dico, secondo te è un caso isolato, è stato un caso di mala amministrazione forse? Allora, io posso dire soltanto una cosa, tipo, guarda caso, tanto alcuni professori sono stati presi di mira. Ma possibile che presi non sapeva niente? Possibile che gli altri non sapevano niente? Possibile che queste cose non accadano all'interno dell'università in maniera sistematica? Guarda, io ad occhio, che io sono uno studente della X facoltà, no? Della facoltà dei Mister X, diciamo così. E io ad occhio, credo ce n'ho un paio così, che, di cui ho il sospetto. Che faccio? Denuncio. O resto nell'omertà. Per dirla con Mac Buongiorno, lascio o raddoppio. Quindi tu vorresti denunciare? Ma si ciuto! potete fare cose, siete... Io non lo so, che mente hai, scusa? Ma, comunque... Ora qui è arrivato il giustizialista, è arrivato l'uomo delle denunce, travaglio, il nuovo travaglio c'è ora. Ma vada per favore. Poi fai come De Magistris che ti candidi a Napoli e ti fai eleggere perché in questa l'ondata del giustizialismo. Che De Magistris, l'est che dice la rivoluzione, ha detto l'altra volta, la rivoluzione. De Magistris sta facendo cose belle comunque perché guarda caso che l'appoggetto è De Laurentiis, si sa chi è De Laurentiis, quindi non è che... L'hanno sostenuto persone rivoluzionarie, proletarie, persone senza soldi, come De Laurentiis. Comunque, tornando a noi... A noi proletari universitari, insomma. Diciamo, a noi studentelli, comunque, che ci divertiamo, per modo di dire. Aspiranti proletari. Aspiranti proletari, c'è il nuovo corso di laurea, apposto ad interim, comunque... L'ha preso il grandissimo La Torre ad interim nel suo rettorato, diciamo pochi studenti per ora, però... Secondo me pure gli studenti hanno preso abbastanza ad interim. Non l'ho capito. Ma quella è l'iniezione intercooler. Ah, sì, giusto. giusto. Beh. Non ho capito, però giusto, mi fido degli altri. Comunque, tornando un attimino alla nostra questione sugli esami che venivano dati in questa maniera, la cosa strana che si verifica... Questa cosa qui è che comunque è impossibile che gli organi maggiori dell'università non sapessero niente. È una cosa molto, molto ambigua. Poi invece dobbiamo tornare sempre per quanto riguarda il nostro gossip al nostro caro amico. Andiamo da... Prego, parli pure, il nuovo Sandro Ruotolo, scusate. Scusatemi, ma io quando si nomina è così vilmente Sandro Ruotolo, il baffetto più originale della RAI, il baffetto più intenso ed enigmatico. Poi c'erano anche le orecchiette più originali della RAI, che era Sandro Riepolo, invece. Va bene, anche questa è andata. Stiamo facendo il meglio del nostro meglio, come citava anche un grande album di Elio Lester Tese. Detto questo, però, noi un'altra notizia interessante è quella che riguarda, come dire, il campus e i suoi derivati. Come direbbe una canzone che possiamo produrre in futuro. Il fatto è che noi abbiamo, come dire, questa identità di campus che... come direbbe una canzone che possiamo produrre in futuro. Deve essere contento, sta già gettando le basi per il futuro, cioè una cosa... Se abbiamo una Laura Pausini, un Gigi D'Alessio in ascolto che volesse avere nuovi spunti per il prossimo album. Questo è offensivo, dire Gigi D'Alessio è offensivo. Perdonatemi, gli ascoltatori non volevano. Il futuro siamo noi ed è giusto anche così. La storia siamo noi e vabbè, noi siamo un po' complicati. Tornando alle residenze universitarie, ragazzi, che siamo anche quelle siamo noi, non fosse altro perché la grande parte delle nostre tasse finiscono comunque anche in quei rivoli e rivoletti. Perciò l'amministrazione rettorale del nostro amatissimo, come dire, rettore, che come dire, di cui dopo vi mostreremo un suo aspetto anche più spirituale, più umanistico, insomma, però non affrettiamo i tempi. Ecco, noi abbiamo questa vocazione residenziale che ci porta ad avere attorno al campus questa struttura unica e concentrata. Anche teoria vorrebbe che ci fossero i servizi. Però siccome, come dire, non si può fare, come dire, una cosa giusta, cioè, magari fai l'università e i servizi poi sono, vengono a mancare oppure vengono delegati a quella forma di microcriminalità tanto simpatica che come dire, nasce spontaneamente nella nostra regione amatissima. Tornando a noi, queste residenze universitarie, sempre fatte costruire da questa, come dire, dal nostro rettore che ha voluto accelerare il percorso di vocazione residenziale dell'università, dopo un po', come dire, ci siamo accorti che i soldi nel bilancio dell'università sono venuti a mancare, tanto è vero che noi siamo 3 milioni di euro sotto, in rosso. Il punto che fa paura, dici vabbè, i soldi sono spesi, ma è come cioè noi io sapevo che avevamo quello debito, però c'è, cioè, quanto, 3 milioni di euro mi sembra che non ci sia il papà, il papà tutto su bordello per 3 milioni che c'è un assegno tra poco, non ti preoccupare, meno male che c'è papà Luca. C'è zio Luca, vorremmo precisare. Il punto è che servono diversi milioni di euro per gli arredi, ma chi li mette, considerato che l'unica non li ha? Tu. Abbiamo comunque, sono stati mandati messi all'ispettore Derrick per cercare di darci una mano in questo punto, ma il fatto che molto spesso a pensare al mare si riesce bene. Il fatto che probabilmente queste residenze si occuperanno delle ditte private che molto probabilmente avranno un modo interessante di gestirle relativamente se pensiamo che sia un servizio pubblico. C'è chi dice che ci saranno residenze di serie A, residenze di serie B, c'è chi dice che ci saranno affitti altissimi ed è molto probabile per garantire l'affitto, cioè garantire il proseguio della costruzione, per garantire anche, come dire, il personale e una corretta gestione della situazione. Insomma, penso che sulle residenze ne potremmo dire tante e tante. Insomma. È arrivata una notizia dalla regia che in verità la nostra lettura dell'articolo è leggermente faziosa, perché il titolo è "Dal sogno del campus al ricorso ai privati". Per privati si intende gli studenti che avranno la casa degli studenti. Infatti lo slogan è "Studente, vuoi la casa? Arredatela". Ah, però... ma scusami, se io me la arredo, no? Dopo me la tengo e me la affitto agli studenti che verranno dopo di me. Questa è la logica. Interessantissima come prospettiva. E il fatto che potremmo produrre anche dei consorzi di studenti che, come dire, possono investire del capitale su questa cosa per poi privatizzarsi. Insomma, l'università è il palazzino abusivo del terzo millennio, mi stai dicendo? Sì, più o meno. Però potrebbe essere un modo per pagarci gli studi. Ma è nato anche un nuovo slogan. Vuoi la casa come vuoi tu? Dacci i soldi, te la arrediamo anche noi se vuoi. Sono cose molto serie da stabilire. Guarda, se noi non abbiamo altri importanti punti da sviluppare, io credo che lo slogan definitivo possa essere "Vuoi la casa come vuoi tu? Aroko!" A bit free. Kids and halls and the pets and in a supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. It's not here. It's not here. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. The special offer, guaranteed personality. I'm now lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I can't deliver a special offer, guaranteed personality. I'm all lost. Apriamo alle prospettive future adesso, e noi vogliamo darvi quali gloriosi scenari si parano davanti ai nostri occhi, ve lo vogliamo mostrare, perché l'università del futuro è un'università che fa proprio a schifare un cazzo, ma proprio fa proprio a schifo, e loro la stanno lavorando in maniera eccellente per fare questa cosa, da tanto tempo. Io ricordo un 1999 vago, un processo di Bologna, una cosa, e oggi ci stanno arrivando. Abbiamo un'università con privati all'interno, abbiamo i dipartimenti, capito? I research departments all'anglosassone, ma manca solo, diciamo, i 10.000 euro diretta, ma piano piano ci siamo. Comunque abbiamo una nuova novità, c'è cosa? C'è una nuova novità che c'è Samuele che mi sta facendo gesti. Io volevo semplicemente dire una cosa, che... E sto fatto del processo di Bologna non è una minchiata, nel senso che, come si suol dire, il processo di generalizzazione di quello che è stato il sistema universitario, dimentichiamo i crediti formativi, la 3 più 2, questo nasceva dall'esigenza, ricordiamo, di fare una laurea uguale in tutte le università europee. Questa cosa dell'Europa, se vi ricorda qualcosa, Monti, Merkel, debito, Margherita Hack, la Commissione Europea, insomma, qualcosa non possiamo che chiedere a Margherita Hack, ma allora la questione del processo di Bologna, come va risolta? Europeo, ho capito, è giusto perché la questione va letta in questo punto di vista, perché la questione europea è, è appunto quello che ci porta anche ad avere, come dire, un governo tecnico non eletto dal popolo, insomma, che le banche comandano sui mercati e anche sull'università, quindi appunto o sbaglio, caro Gustavo? Ma guarda, diciamo che non solo, sì, comandano sui, diciamo che è il mercato, quindi le banche, che comandano sull'università e in generale sullo Stato. Io ogni volta ci troviamo a erigere l'emblema, il simulacro della lettera, la letteruzza di Draghi e Trichet. Ma questo è un dato. I nostri stati, altro che unificare la formazione dell'Europa, assolutamente, stanno differenziando l'impossibile. E questa direzione è proprio quella che vuole dire il signor Monti quando dice, cioè un giovane, no? Un professore giovane come Monti, che arriva e la prima cosa che dice, prima da citare, il governo Berlusconi, durante l'era Berlusconi ci sono state due cose buone, la riforma Gelmini e il piano Marchionne, già questo ci mette in guardia. E poi l'ultima uscita di profumo, Crustunzo, ex rettore dell'Università di Torino, del Politecnico, che adesso è, diciamo, il ministro all'istruzione, il MIUR, e con, in collaborazione con lo stronzo di Monti, lui esce e dice: sì, ma questo valore legale del istituto di studio va modificato. E effettivamente la direzione è altro che quella di unificare, no, la direzione è quella di fare università di serie B, di serie B, di serie C, di serie D e poi università di serie A che dovranno andare ai soliti professoroni. Diciamo che seguono il vecchio consiglio di Napoleone, no? Niente scuola, popolo ignorante, faccio da comandare. Questo è proprio l'emblema e quello che vogliono fare. Il punto è proprio questo, nel senso che all'interno di questa dinamica c'è il fatto che il titolo di studio diventa lo strumento per svilire ancora di più il sapere e per far sì che scuole diverse, università diverse abbiano comunque formazioni di tipo diverso e che anche i finanziamenti a formazioni di tipo diverso siano diversi e quindi le scuole migliori, rinomate, con un nome più bello avranno molti più soldi di una scuola con un nome più bello, nonostante la formazione della scuola più piccola abbia molto spesso in certe nicchie una qualità superiore. Comunque volevo dire ai nostri ascoltatori che casomai volessero approfondire la questione per esempio del valore legale del titolo di studio nei particolari è stata sviscerata ampiamente, diciamo, nelle scorse puntate che voi potete ritrovare in podcast su archive.org. Voi andate su archive.org, che è una piattaforma geniale, voi scrivete banda armata ed escono tutte quante le puntate in ordine cronologico con i tag, magari scrivete diritto allo studio e titolo di studio e uscirà qualcosa. Da questa piccola cosa che ha detto da Gustavo si può capire come l'istruzione stia peggiorando. Gustavo ha fatto la sua istruzione molti anni fa, scuole elementari, medie. Ancora dice scrivate, quindi immaginiamoci nel domani cosa possiamo aspettarci. Cioè, solo il peggio. Appunto, di peggio stiamo parlando, perché se il titolo di studio fa questo effetto, e su questo vi riserviamo per le prossime puntate, dopo la nostra pausa estiva, per avere le novità che noi stiamo comunque lavorando, c'è anche, tornando alla questione europea, il fatto che questo sia un adeguamento ad un memorandum che sta girando per l'Europa, che sull'università dice anche un'altra bella cosa, che si dice la liberalizzazione delle tasse universitarie, ovvero che ogni ateneo può pagare in base a quando cazzo vuole. Di conseguenza, finendo questa cosa, sempre col bel principio dell'autonomia degli atenei, che è questa cosa curiosa che nessuno ha avuto ancora il coraggio di spiegarci per bene, allora dietro questa cosa si creeranno nei prossimi anni delle situazioni paurose, pagheremo molto di più un servizio che sarà molto molto molto molto più basso, anche una formazione delle coscienze, anche un nostro stare insieme proprio è finito. E questo ci fa pensare che adesso noi stiamo per avviarci ad un percorso di chiusura anche della puntata, perché, come dire, questo è il nostro crepuscolo, noi vi lasciamo nella notte, e più scuro di mezzanotte non può essere, però noi vi facciamo intravedere nelle nostre parole, la nostra speranza, la nostra gioia di vivere, di voler cambiare il mondo, il futuro, l'alba di domani. E ci facciamo un culo tanto? Diciamo una piccola luce, come vedono quelli che sono al coma quando si risvegliano, diciamo, no? E comunque, dopo questa prima puntata ce ne saranno altre, giustamente, altre puntate, possono essere 3, 4, 5, 6, 9, sono le solite puntate balneari, ma ricordate che noi di Fuori Onda Radio non andiamo mai in vacanza, ma continueremo sempre a lavorare per portarvi la nostra voce, e la vostra voce, quando volete, siamo sempre qua in aula più occupata, per dire ciò che volete, contro chi volete, anche contro di noi stessi, non è che ci offendiamo, mica siamo... però abbiamo Ghedini come avvocato, quindi non so se vi conviene. Sì, e infatti invitiamo tutti gli studenti che ci ascolteranno a venire in aula quando vogliono e come vogliono a fare la loro puntata personale. Mettiamo puntata a Giovanni Falcone, per esempio. Ragazzi, vi lasciamo con un pezzo che è storico della rubrica universitaria, no? Prima di questo, però, una piccola chicca che ha un titolo molto particolare. Samuele. Gibilbilbi. Gibilbilbi a voi. Gibilbilbi a tutti.